Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:19 minuti ed è venerdì. Cari ascoltatori, io ho ancora 25 sveglie all'alba e poi sono in vacanza. E voi? È venerdì, la 111esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è passata, anche se Matteo Renzi a porta ha detto che le province non le hanno abolite. Ma come? Vabbè, l'abbiamo fatto sentire, lo sentiremo, è un po' un tormentone nostro, alle 6:30 l'abbiamo fatto sentire, Renzi sulle province. Comunque, siamo qui, parleremo con Michele Emiliano, ospite alle 8:15, così come parleremo di altri temi. Questo è il menù degli ospiti di più tardi, ma, iniziamo dai giornali. Venerdì, per l'appunto, 19 giugno, i titoli, il Sole 24 Ore apre sugli appalti, così cambiano gli appalti con il primo sì al Senato la riforma. È il tema anche sul Fatto Quotidiano, anche se con un'altra impostazione. In prima pagina, il falso in bilancio modello Renzi rischia di salvare anche l'Igresti. Oltre alla questione degli appalti c'è questa vicenda del falso in bilancio. Per il Corriere della Sera, conto alla rovescia per Atene. Il super vertice lunedì con premier e capi di Stato. Merkel dice negoziare a oltranza. Anche per la Stampa, Grecia trattativa fallita, vertice straordinario lunedì per il leader dell'Unione Europea. Sul Messaggero, una nuova grana per Marino. Roma bomba salari sui conti. Il Tesoro dice sono illegittimi 360 milioni erogati nell'era Alemanno per le indennità dei dipendenti comunali. Repubblica invece, ecco il prezzo delle sanzioni allo zar Putin. Un'inchiesta di 7 giornali europei. Questa cifra è di 100 miliardi, quanto paghiamo in perdite economiche per le sanzioni alla Russia. E poi Avvenire, il cantico di Dio, uomo e natura, è l'enciclica del Papa che conquista anche la prima pagina di Libero. Riscaldamento papale è l'enciclica ecologista. E la prima pagina del Manifesto c'è la foto di una della siccità in maniera emblematica, con una terra tutta spaccata, e il titolo del Manifesto è Papale, papale. Ma voglio partire con una notizia buona, credo, penso, per chi ha preso una multa. È una notizia che riguarda una sentenza di Cassazione che forse porta all'annullamento di migliaia di contravvenzioni prese dagli automobilisti con l'autovelox. Avete preso una multa, lo so, siete con le mani sul volante in questo momento, state per attendere la notizia ed eccola qua. Autovelox bocciati, multe irregolari. È il Sole 24 Ore con Norme e Tributi, Maurizio Caprino e Gianni Trovati, che raccontano come le multe prodotte da autovelox che non vengono controllati periodicamente sono illegittime. A dirlo è la Corte Costituzionale, una sentenza depositata ieri, ha bocciato le regole del codice della strada nella parte in cui non prevedono che tutti gli apparecchi siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Dunque, a rischio tutte le multe prese, attenzione, quelle già pagate. Porca, sapevo che non dovevo. Vabbè, quelle già pagate non si può fare più nulla. Ma scrive il Sole 24 Ore, attenti, non è che se vi è arrivata a casa una multa con l'autovelox la stracciate perché pensate che adesso sia tutto a posto. Per capire l'ambito colpito dalla nuova sentenza bisogna dividere gli autovelox in due famiglie. La prima è rappresentata dagli apparecchi accompagnati dalla pattuglia della polizia. La seconda invece abbraccia quelli che vengono piazzati sulle strade e lasciati lì a funzionare in automatico. Ecco, è questo secondo gruppo, cioè degli autovelox lasciati lì, che funzionano in automatico, che dovrebbe essere sottoposto a verifiche periodiche. Lo prevedono i principi fissati dal Ministero nel 2005. Questo decreto esclude la necessità di verifiche periodiche per gli strumenti impiegati sotto il controllo degli operatori di polizia stradale. Dunque, se vi è arrivata una multa con l'autovelox, che però a fianco del quale c'era un operatore di polizia, quella non rientra nella casistica del possibile annullamento. Quella invece degli autovelox piazzati lì sulle strade per fare cassa, e sappiate che, così scrive la stampa, solo a Milano il comune arriva a 480.000 euro al giorno di multe con gli autovelox. Io non ci volevo credere, però l'ho dovuta rileggere 5.000 volte questa cifra, ma è così. 480.000 euro al giorno il comune di Milano. Così scrive la stampa con Paolo Baroni a pagina 14. Vabbè, in tutto questo, vabbè, leggete il Sole per sapere se potete prendere, potete annullare le vostre multe oppure no. In tutto questo c'è il grande dibattito sui campi rom, è tornato alla ribalta, perché da due giorni il ministro all'interno Alfano dice: smantelleremo i campi rom. Come? Dando soldi ai comuni che trovano soluzioni abitative ai rom che ci vogliono stare, e poi chi non ci vuole stare, smantellare i campi e, se non è italiano, espulso. Soldi ai sindaci per le case ai rom. Il ministro Alfano, a pagina 2 del Giorno, racconta il suo piano: un fondo per sostenere i comuni, così si supera l'emergenza dei campi nomadi. Faremo in modo che quanti vorranno partecipare a un programma di assegnazione di luoghi più civili per vivere dovranno sottoscrivere un accordo con lo Stato, i rom, e chi si rifiuterà dovrà comunque abbandonare i campi. Gli stranieri potranno essere espulsi. Se sono invece italiani, come moltissimi rom, come tutti gli altri italiani, dovranno rispondere di quel che fanno, al pari di qualsiasi cittadino. Questo è in sintesi il piano rom di Alfano. Anche la stampa dedica una pagina a questo: il patto con i rom o saranno espulsi. E sentite l'intervista a Davide Casadio, un esponente dell'etnia Sinti, intervistato sempre dal Giorno, 45 anni, presidente della Federazione Nazione Rom e Sinti, dice: se mi danno una villa, la rifiuto. A parte che, insomma, non ho capito perché dovremmo dare una villa a questo signore. Anch'io vorrei una villa, anche Carmelo La Rucella vuole una villa, possibilmente Lorenzo Nespoli ne vorrebbe una in città e una piccolina al mare. Comunque, se mi danno una villa, la rifiuto. Io vivo in una casa mobile e se mi regalano la villa non l'accetto. In linea di principio sono d'accordo con il progetto di Alfano, la soluzione che lui pensa non è quella giusta. Il problema principale dei Sinti e dei Rom non sono i luoghi in cui viviamo, ma la discriminazione che ogni giorno, in ogni luogo, subiamo. Il problema sono i mega campi nomadi in cui vivono 30-40 famiglie che sono dislocate in grandi città come Napoli, Roma o Milano. La soluzione per me è un passaggio graduale, non un taglio netto come pensa il governo. Va bene, questo è Davide Casadio, intervistato dal Giorno. Vi racconto due notiziole di cronaca, a cominciare da questo signore, Alberto Barbero, 32 anni, professione cassiere del supermercato. Racconta la stampa: ha trovato una valigetta piena di anelli, fedi in oro, croci, orecchini, scritte in oro zecchino con i nomi di sposi, fidanzati, bracciali, diamanti, collane. Era a Valenza, la città dell'oro, valore 15.000 euro. Che ha fatto questo signore? L'ha portata ai carabinieri, che hanno trovato il legittimo proprietario, il quale ha ricompensato con 900 euro questo signore, che dice: così mi pagherò il bollo dell'auto. Beh, davvero, un gesto non male. Trova una borsa piena d'oro e la restituisce al proprietario. Mentre sul Giornale, notiziola di cronaca, pagina 17, guai per Lori del Santo. Una vecchia causa iniziata nel 1988 perché ha allagato con un'infiltrazione l'appartamento dei vicini di casa, si è chiusa in Cassazione. Lori del Santo è colpevole di allagamento. Deve risarcire i vicini, che ormai non sono più vicini, anche perché la causa è iniziata nel 1988. Una causa per allagamento, infiltrazioni, iniziata nell'88 e conclusasi nel 2015. Ah, che straordinario paese che siamo. Anche perché il fatto che siamo uno straordinario paese lo conferma questa notizia, che è la notizia che ci fa più incazzare della giornata, anche se è venerdì. Ebbene sì, la troviamo su Libero. Le mani strettissime sul volante, cari ascoltatori, la burocrazia affossa il Soave. C'è un nulla osta che blocca 100 milioni. La racconta Alessandro Gonzato, questa notizia, una burocrazia italiana che affossa il vino Soave, la più grande cantina cooperativa del Veneto, che nell'est veronese produce 1 milione di ettolitri all'anno di bianco DOC, rischia di dover traslocare. Perché da più di 5 anni la casa vitivinicola tenta di ottenere un nulla osta per ampliare il sito produttivo, per arrivare a produrre 80 milioni di bottiglie rispetto alle 35 milioni che produce oggi, ma la conferenza dei servizi ancora una settimana fa ha nuovamente allungato l'iter. Allungare in Italia, allungare, ora a rischio un investimento da 100 milioni di euro e la minaccia ce ne andiamo via. Certo, come fai a spostare le vigne? Non è facile spostare le vigne, insomma rimangono lì. Ah, povera Italia. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. This is George Clooney and I also like listening to 24 Mattino. Grande George. Allora ringrazio l'ascoltatore che ricorda che io e l'Alpino dobbiamo fare la botta perché lui va in ferie da domani per un mese. Ci scrive così nel messaggio. Buone ferie. Ringrazio e saluto Paolo che ci racconta e mi dice: buongiorno, a me mancano 30 svegli all'alba, ma per la pensione, dopo 43 anni di escavatorista. Grande Paolo, te la sei strameritata la pensione. Complimenti, attento che in questi 30 giorni in qualche provvedimento del governo non allunghi di altri 5 anni il lavoro. Succedono queste cose, sono successe in passato, sto scherzando ovviamente Paolo. Grandi complimenti e buona pensione, te la sei davvero strameritata. È l'Italia che produce, l'Italia che lavora, l'Italia che fa tutti i giorni e che è qui all'ascolto di 24 Mattino per raccontare ancora quello che succede dai giornali, i giornali. Oh, c'è un'altra grana per Ignazio Marino. Mamma mia ragazzi, ogni giorno ne arriva una sul groppone e questa mica è male, Il Roma rischia un buco da 350 milioni, ulteriore rispetto a quello che già rischia, perché il Ministero dell'Economia ha giudicato illegittimo il salario accessorio che era stato versato nell'era Alemanno ai dipendenti. Attenzione, nell'era Alemanno, quindi ecco per questo dico Ignazio Marino ce n'è un'altra sul groppone che non dipende da lui. La frenata anche per i fondi sul Giubileo, comunque tutti i dettagli Ernesto Menicucci a pagina 6 del Corriere della Sera. Dopo le parole e i fatti, non fossero bastate le frasi di Renzi, cioè Marino si guardi allo specchio e oltre che onesti bisogna essere capaci, piovono sul Campidoglio due tegole. La prima appunto dal Ministero dell'Economia che giudica illegittimo questo salario accessorio pagato ai 24.000 dipendenti del Comune di Roma e ora il Campidoglio è stato richiesto di rientrare di quella cifra erogata tra il 2008 e il 2013, perché la vicenda del MEF viene da lontano e quindi Marino ce l'ha sul groppone. E poi la questione sui fondi del Giubileo, c'è una frenata, non si riunisce il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno, non decide su questo, si deciderà la prossima settimana. Però il sindaco, lo sapete, dice: io tengo duro, andrò avanti fino al 2023. Ieri ha fatto una conferenza stampa, niente, non molla di un centimetro. Ignazio Marino tiene duro e ancora sul Messaggero viene intervistato a pagina 3. Intanto su questa vicenda del buco da 350 milioni, che per il Messaggero sale a 360 milioni, dice: sono tranquillo, quelle del Ministero sono carte che conosco molto bene. Io come capo amministrazione sono stato l'unico sindaco d'Italia che ha firmato il contratto che agganciava i salari accessori al merito. Se c'è una città che ha fatto un percorso virtuoso, questa è Roma, dice Marino. E col ministro Padoan nelle scorse settimane abbiamo fatto un grande lavoro, ora con la Ragioneria dello Stato troveremo le soluzioni. E poi Marino, eccolo qua. Ma lei ha più sentito Renzi? No. E tra l'altro penso di continuare, non penso che SEL mi abbandonerà, perché gira questa voce che il vice sindaco Luigi Nieri di SEL possa dimettersi. Non credo che Nieri lasci, ma è preso certamente da due fuochi. Comunque non penso che il partito di Vendola mi abbandonerà e mi sento tranquillo. Renzi non l'ho più sentito. Ma lei, chiede Simone Canettieri al sindaco, è davvero sicuro di continuare a fare il sindaco di Roma fino al 2023? Sì, risponde Ignazio Marino. Sul Messaggero, a pagina 3, la sfida continua, come continua il reportage giorno dopo giorno di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera sui disastri di Roma, peraltro disastri da tempo annunciati, ma messi nero su bianco dal Corriere con delle inchieste dal titolo Il Grande Degrado. Beh, sapete che il Comune di Roma ha 25.000 dipendenti diretti, 35.000 delle municipalizzate, in totale insomma di 60.000 dipendenti. Dopo Poste Ferrovie il Comune di Roma è la terza azienda del paese. Pensate, raccontano Stella e Rizzo, che il Comune di Roma è l'unico ente pubblico al mondo ad essere proprietario di una compagnia di assicurazioni, e tra l'altro ha combinato questo la compagnia di assicurazioni. La vicenda di qualche anno fa di Antonio Karim Capuano, un belloccio tronista di Uomini e Donne, che con la sua Smart si schiantò contro un bus comunale. Saltò fuori che viaggiava senza assicurazione, aveva un tasso alcolemico quasi quadruplo. Insomma, legge alla mano, poteva pagare la ciucca con una multa da 1.000 a 6.000 euro, l'arresto da 6 mesi a 1 anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, la confisca dell'auto. Invece sapete com'è andata a finire? Per 2 anni il giovanotto ha chiesto 3 milioni di euro di danni al comune, alla compagnia di assicurazione del comune, perché minato nella salute non poteva partecipare ai talk show. Ma l'assicurazione comunale rifiutò, dato che c'era almeno il concorso di colpa, al massimo poteva dargli 250.000 euro, non un euro in più, ma alla fine, un bel giorno, come ricostruì il TG7 di Enrico Mentana, i vertici della compagnia assicurativa del comune diedero al bellone Mozzaorecchi una transazione da 1.200.000 euro. Riprovevoli, li definì Ignazio Marino, che annullò tutti i vertici della compagnia assicurativa. Così funziona, raccontano Stella e Rizzo, nella terza più grande azienda del paese dopo Poste e Ferrovie, il Comune di Roma. In tutto questo Renzi dice vado avanti, ma torna e rispunta Massimo D'Alema. Sapete che qua non ci sono dei guai, Massimo D'Alema nei confronti di Renzi, ecco che tira fuori il dente canino aguzzo e affonda. Intervistato dal Corriere della Sera ad Antonio Macaluso, dice: va male, ho letto dichiarazioni che attribuiscono responsabilità della sconfitta alle primarie, ai candidati, ma come? Una volta le primarie facevano vincere, ora fanno perdere? Renzi, insomma, il Renzi 1, quello che ha portato il PD unito alle europee, ha vinto il 41%, ma poi si è illuso di avere ormai vinto e di poter fare da solo, e ha finito per deludere molte delle speranze che aveva suscitato. Così Massimo D'Alema sul Corriere della Sera: se cede il PD, l'Italia preda dei populismi. Ora si riparta dal dialogo interno. Rialza la testa, ringalluzzito D'Alema. Invece noi avremo Michele Emiliano, che da ieri è presidente della Regione Puglia, insediato, e ha proposto come prima cosa quello di ridurre lo stipendio dei consiglieri regionali da 8.000 a 5.000 euro. Suscitando subito una marea di proteste tra i consiglieri, ovviamente. Mentre è insediato anche De Luca. È insediato, sapete che c'è per la legge Severino la procedura di sospensione che deve iniziare. Si è insediato, ma non si è presentato. Non si è presentato, e secondo Repubblica una strategia ben precisa. De Luca ha proclamato subito scontro, ma prima insedio il mio vice. Ecco tutti i dribbling per cavarsela. Cioè non era a Napoli nel giorno dell'insediamento a Presidente della Regione Campania, era a Salerno per studiare con i suoi legali come ritardare di qualche giorno il tempo di nominare il vice, che quando interverrà la sospensione continuerà nella azione di governo in Campania. Comunque questa è una vicenda che staremo a vedere. Intanto, se avete preso la multa, l'autovelox, come abbiamo raccontato abbondantemente, il Sole 24 Ore vi dice che forse, se non l'avete già pagata, mannaggia, io sapevo che non dovevo pagare. Vabbè. Comunque, Mauro Meazza, buongiorno, io sono tutto in regola. Buongiorno, facciamo la svelta che devo andare a scartabellare qui nelle multe per vedere... Perché tu non le paghi, fai bene, tu le tieni. No, purtroppo invece le pago, anzi ne ho pagata una pure ieri al comune con una certa gioia, sì, anche perché sì, sempre pago con una certa gioia. Ma tra l'altro, scusa Mauro, la stampa dice questa cifra, ma anche a me sembra inverosimile. Dei 450.000 euro al giorno. Ma mi sembra assurdo, dai. Non so, io ieri ho contribuito in parte. No, con ma una dai, assurdo, cifra. 480.000 euro al giorno, avrà sbagliato, sarà al mese. Guardi, le faremo sapere, dottor grazie, Milan, le faremo sapere. Grazie. Ma lei va in ferie nel 2023, perché ho fatto un po' di confusione. Sì, col sindaco date. Marino. Con il sindaco, cioè lei e il sindaco Marino andate insieme in ferie nel 2023. Sì. Vabbè, senti, no, ti volevo dire però, c'è anche stato ieri un voto importante al Senato sulla riforma degli appalti, le nuove regole sugli appalti che descriviamo oggi sul Sole 24 Ore, tra l'altro nelle pagine 2 e 3, c'è anche qualche timido segnale di, non si può parlare di ripresa, ma insomma di risveglio dalla crisi proprio per quanto riguarda gli appalti, ma ti spieghiamo tutto sul Sole 24 Ore di oggi, così come ti spieghiamo sulla Grecia. Ieri avevamo detto che era una giornata importante, ecco, però non è andata benissimo, anzi è andata malino, si potrebbe dire. Allora, tutto rinviato a lunedì vertice straordinario, vediamo inizierà che una settimana decisiva. Ho questo dubbio, sì. Sei già in ferie lunedì? No, perché non è ancora il 2023, quindi ci sei ancora, va bene. Sì, allora avremo tempo poi di raccontarlo anche agli ascoltatori, oltre che ai lettori del Sole 24 Ore, lunedì e martedì naturalmente. Volevo dirti, c'è una notizia abbastanza positiva, cioè continuano le richieste delle banche per il TLTRO, cioè sai questi prestiti che la BCE eroga, ecco, ci racconta Luca Davi sulle pagine di Finanza, ieri è stata una richiesta di 73 miliardi in linea con le attese alle banche italiane 14, perché è una buona notizia, perché significa che se uno li prende poi li dovrebbe anche prestare, speriamo che sia così. Scusa, non si chiama multa, non è che hai ricevuto una lettera dal fisco alle volte? No. Sei sicuro? Guarda nei giornali, che lì tu ti perdi di tutto in quei giornali lì, decreti, cose. Sicurissimo. Allora guarda, perché se ne stanno partendo 190.000. Quindi potrei, me l'hai tirata, la riceverò domani? No, non lo so, io ti sto dicendo che stanno partendo 190.000 lettere, l'ho letto sul Sole 24 Ore, sono relative ai contribuenti soggetti di studi di settore che però appunto hanno presentato dei dati sui quali il fisco manifesta delle perplessità, diciamo così, quindi non sono sanzionatorie, però dicono ma abbiamo fatto bene i conti, sei sicuro di quello che ci hai detto? Questo è più o meno l'approccio del fisco. Del fisco. Ti voglio anche dire, no, non so se lo sai, ma ieri c'era Michelle Obama a Milano. Ma dai, non ce ne siamo, ha detto di mangiare verdura e di non abbuffarsi. Ecco, però tra l'altro era visita consigli importante, fondamentali. Ti spiego Paolo Brico, la visita è anche importante nell'ambito dei negoziati tra Europa e Stati Uniti sul commercio internazionale, il TTIP, scusa, mi è scappata una T di troppo, ma è una sigla abbastanza impronunciabile. Ti voglio in ultimo segnalare, poi devo andare perché devo andare a controllare le multe, che c'è sempre il problemuccio, diciamo così, dei migranti. Sì. Noi ne parliamo anche oggi sul Sole 24 Ore, tra l'altro ho preso appunto dai dati ONU di cui parliamo oggi, che ci sono state in Europa un numero di migranti forzati a fine 2014 di 6,7 milioni. E questo mi sembra un numero che già dice tutto. Va bene, vado a guardare le mie multe, ci sentiamo nel 2023 allora. Ottimo. Benissimo, allora buon fine settimana, buone vacanze e soprattutto traffico! Alessandro Milan, le occhiaie dell'informazione! Esatto, le occhiaie, ma tra 25 albe in ferie e raccolgo l'invito di Andrea da Padova che mi scrive le mie sveglie, sono ancora 36, ma non per le ferie, ma per inaugurare una mia nuova attività perché inseguo il mio sogno. Evviva, un grandissimo in bocca al lupo ad Andrea da Padova. C'è anche chi mi scrive via SMS al 349-238-6666 che vuole sapere dove è la notizia dei 100 milioni bloccati dalla burocrazia. La notizia Mani sul Volante è su Libero, Libero, compra il quotidiano Libero sul vino soave. A proposito di immigrazione, abbiamo già parlato, solo una notiziola che mi ha colpito, pagina 19 del Corriere della Sera, assessore leghista, leghista, ospita 15 migranti e il sindaco la sospende. Succede a Selvazzano Dentro, Padova, Italia, un assessore ospita 15 profughi africani in case di sua proprietà, il sindaco non gradisce e la sospende dall'incarico. Ma Daniela Faggion, assessore nel Padovano, dice: sono contentissima di quello che ho fatto, anche perché questi ragazzi si stanno comportando in modo impeccabile. Il sindaco non la pensa allo stesso modo. Allora, siete contenti che Fabrizio Corona è uscito dal carcere per approdare nella comunità Exodus di Don Antonio Mazzi? Siete contenti? Dite la verità, non aspettavate altro. Corona esce dal carcere e dice: ora si riparte. Ha già scritto anche qualcosa su Twitter, su Facebook: giuro, non rientrerò più in carcere, finalmente, grazie, grazie, sono felice. L'articolo di Giuseppe Guastella racconta, pagina 21 del Corriere, come sia possibile che dopo 2 anni, 4 mesi, 23 giorni di carcere Fabrizio Corona lasci la cella per curarsi della dipendenza della cocaina. Il giudice di sorveglianza Giovanna Di Rosa concede all'ex re dei paparazzi di trascorrere gli ultimi 6 anni di pena in affidamento terapeutico alla comunità Exodus di Don Mazzi, con un provvedimento che ha una forte apertura di credito nei confronti di un personaggio che ha fatto della sregolatezza, dell'eccesso dei colpi di testa la cifra della sua vita e che è stato condannato a una pena di oltre 13 anni, che seppure tecnicamente ineccepibile a molti appare spropositata per il tipo di reati e il contesto in cui sono stati commessi. Calcolando quanto ha già scontato e la liberazione anticipata per buona condotta, cioè 150 giorni di sconto per ciascun anno di pena, a Corona sono rimasti meno di 6 anni di carcere, limite sotto il quale i tossicodipendenti possono andare in comunità. Questo è il motivo per cui ha ottenuto tutto ciò. Ci sono poi molti articoli dedicati all'enciclica del Papa che Avvenire pubblica in allegato oggi, quindi se comprate Avvenire c'è anche il testo in allegato dell'enciclica papale, Laudato Si. Il Papa del popolo, così definito su Repubblica, parla ovviamente, è definita l'enciclica ambientalista, ma anche della finanza, il salvataggio delle banche è stato pagato dai deboli. Questo è il concetto chiave espresso in maniera ovviamente più articolata nell'enciclica dal Papa, tanto che Iena sulla Stampa, pagina 3, commenta così: compagno Papa. Tra l'altro, domanda, essendo un'enciclica ambientalista, va da sé, è ovvio che sarà stampata su carta riciclata, come minimo, come minimo. Ecco, no. Il cardinal Turkson, o Turkson, visto che è americano, viene... no, è africano. E dunque Peter Turkson, come si pronuncerà? In ogni caso, intervistato dal Giorno, dice... no, effettivamente su carta riciclata dovrei controllare, ma temo di no. E ammette: in Vaticano sprechiamo ancora molta carta. Dovrei fare un po' di ricerca, ma credo che siamo indietro. In effetti sarebbe una buona idea risparmiare carta, vista la gran quantità di documenti e materiale utilizzato negli uffici. Caro cardinale, la carta costa. La carta costa. E quindi svolta verde, visto che l'enciclica ha una svolta ambientalista. A proposito di carta costa, siamo qui. Ma sì, non ho letto niente della strage in America di neri perché non c'è tempo, ma la carta costa, l'articolo più inutile è sul Corriere, dove a pagina 16 Maria Luisa Agnese fa un lungo trafiletto, lungo tutta la pagina, per raccontare bianco, rosa pallido, beige, un tocco di nero. Sì! Agnese Renzi in beige e rosa si veste bene incontrando Michelle Obama. Ma chi se ne frega!